Paris. Billboard Music Chart. New York. Billboard Music Chart. Tokyo. Billboard Music Chart. Frankfurt. Club 91. Club 91. Club 91 presents. Club 91. Club 91 presents. Billboard Music Chart. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh and you're very welcome to questa edizione of Billboard Music Charts, mercoledì sera, e siamo pronti per iniziare con un gran bel pezzo a richiesta del nostro DJ Gino Banderas. Questo è il grande Lucio Dalla with Washington. Lucio Dalla with Washington, un vecchio pezzo sì, però Lucio Dalla è tutto attuale al momento. Il suo nuovo singolo siciliano sta facendo molto bene per lui in questo istante. Allora, Washington è siciliano, quello ha studiato bene il geografia a scuola, direi. E nel siciliano c'è anche la voce di Carmen Consoli, molto bello. Ok, Billboard Music Charts, fino alle ore 23, mercoledì sera, vi do i nostri coordinati, il nostro numero di SMS per contattarci, 335-537-9191, e il nostro numero di telefono 081-549-9191. Allora, andando avanti con la musica, la bella musica del Billboard Music Charts, proprio oggi ha avuto 5 nominations sulle American Music Awards. Sto parlando di Alicia Keys and here's Falling. You got it bad, it's Usher. Quello è un grande numero uno al momento, number one in the hot rhythm and blues singles in America. E poverino, Usher al momento si è fatto male alla spalla e ha dovuto annullare il suo tour americano. A proposito dell'America, al numero 14 nel Billboard Hot 200, it's Stained and here's It's Been a While. Questo è stato il disco più suonato in Svezia nel 2001, almeno il 2001 che abbiamo completato finora. Ora, e posso dire anche uno tra i miei pezzi preferiti di tutto quest'anno, it's Titillo with Come Along, un gran bel pezzo. Allora, you're listening to Billboard Music Chart, vi ricordo che il nostro numero di SMS è 335-537-9191. Però inoltre ragazzi, siamo quasi arrivati al momento del gioco, perciò mettetevi a telefonarci subito alla 081-549-9191. E nel frattempo andiamo a guardare gli Dance Chart della classifica americana, e al numero 41 in the dance chart it's Groove Armada with My Friends. Friend, e questo lo voglio dedicare a tutti gli amici di Club 91 che stanno ascoltando in questo momento, perché ragazzi siete tutti my friends. Eccoci, siamo arrivati al momento del gioco e vediamo chi c'è in linea. Pronto? Chi sei? Pronto? Roberto. Roberto. Roberto, buonasera, grazie di averci telefonato questa sera. Figurati, è tanto che cerco di prendere la linea, ma è difficile, è sempre occupato. Che si può dire, questo è Radio Club 91, abbiamo un grande ascolto perché facciamo sentire la più bella musica di questo paese. È vero, confermo. Grazie Roberto. Ok, vogliamo vedere se tu conosci un po' la tua musica. Sai come funziona il gioco? Praticamente io ho 5 busti davanti a me, tra la A e la E. Tu devi semplicemente scegliere una lettera, A, B, C, D o E. Io apro la busta e vediamo, forse una domanda semplice, forse una domanda difficile, o può darsi che ti chiediamo di cantare un brano. Allora, sei pronto? Tra la A e la E. La C. La C, ok, fammi vedere. C, eccoci qua. Ok, vediamo. Bello, se sei un fan delle belle donne, secondo me questo la beccherai sicuramente. Stiamo parlando di Jennifer Lopez, la conosci, no? Come, no, famosissima. Infatti. Soprattutto per il corpo. Per il corpo, questa è la domanda. Oh, non mi anticipare qua, voglio chiederti per quale parte del corpo è famoso Jennifer Lopez. Il culo, ovviamente. Si può dire in onda. Roberto, tu sei un vincitore, rimani in linea e prendiamo tutti i tuoi dettagli e così puoi portare questo bel cappellino di Radio Club 91. E nel frattempo mi pare che sia giusto che ascoltiamo la bella musica di Jennifer Lopez. Allora, che mettiamo? Remixiamoci un po' e ascoltiamo Jennifer Lopez, I'm Real, here we go! E con Stop That Train, il loro album Na 9910 entra in classifica italiana al numero 10 questa settimana. Un bel pezzo questo. Allora, tra poco arriverà Now and Then, un remake di un vecchio brano, però ieri abbiamo fatto sentire All Star Lineup with What's Going On. Here they are. un grande hit per lei in America al momento, sarà molto felice. Ok ragazzi, siamo arrivati al momento di Now and Then, e questo mercoledì sera abbiamo scelto un bellissimo pezzo originalmente di Elvis Presley, tutto napoletano, It's Oh Sole Mio. Just a little patience, just a little patience from Guns N' Roses, 1988, e questo lo voglio dedicare a Pina, che è un grande, grande fan di Guns N' Roses. Allora, i Guns N' Roses dovrebbero venire in Europa l'anno prossimo, però hanno annullato per la seconda volta il loro tour. Ma che sta facendo Axl Rose? This is the Billboard Music Charts, fino alle ore 23, il nostro secondo ora. My name is Fergal Kavanagh, abbiamo Gino Palombo on controls, e chi ci ascolta sempre sa che a quest'ora vi racconto che è successo esattamente il 14 novembre e nei tempi precedenti. Allora, il 14 novembre del 1960 il Billboard ha detto che Elvis Presley's It's Now or Never è diventato il disco più venduto più velocemente nella storia della classifica. E noi prima del punto ora, prima dell'ora del news, abbiamo ascoltato un bel mix di It's Now or Never e Il Sole Mio di Domenico Modugno, Paul McCartney e Elvis Presley. Si avete acceso la radio adesso, ragazzi, vergognatevi, perché era veramente un bel remake. Ok, andando avanti con la musica un po' più attuale, here's the new one from Garbage, it's called Androgyny. E notizie per i Garbage, il batterista Bruce Vig è stato molto molto male, però adesso si sente meglio e il nuovo album esce tra poco. Without You, questo è il nuovo pezzo di Cher, il suo nuovo album esce lunedì prossimo, si intitola Living Proof. E ragazzi, veramente, music is no good without you, without Club 91. E adesso siamo per proporre il nuovo singolo di Mick Jagger alla grande. Questo pezzo si intitola God Gave Me Everything, è stato scritto in collaborazione con Lenny Kravitz. E perciò subito dopo facciamo sentire il nuovo singolo di Lenny Kravitz intitolato Dig In, e facciamo un piccolo confronto. Fatemi sapere il numero SMS che vi do dopo se assomigliano Mick Jagger e Lenny Kravitz. E questo al momento si trova al numero 9 nella classifica spagnolo. Allora vi ho promesso il numero di SMS, è 335-537-9191. E voglio ringraziare a Skipper che mi ha scritto. Ha detto che gli piace molto il pezzo di Lenny Kravitz, e quindi questo lo dedico a te. Voglio anche salutare Elena che mi ha scritto, che volevo dire in bocca al lupo per il programma. Thank you Elena. Al momento un email indirizzo non ho, però ce l'avrò tra poco. 335-537-9191 è il nostro numero di SMS. Here's Britney Spears, I'm a slave for you. Success story dell'anno scorso, Anastasia, e quello era Paid My Dues, veramente bello, una bella voce che ha lei. Ed andiamo un attimo, torniamo in Italia, sempre sulla bella voce, questi sono gli 8 Ohm, Amore al terzo piano. O se non state muovendo a destra e a sinistra e su e giù a questo pezzo, vuol dire che avete i piedi inchiodati a terra, sicuramente. Un gran pezzo da The Chemical Brothers, It Began in Africa. Allora ragazzi, mentre ascoltiamo Paulino Rubio e io sia qui, io voglio che voi telefonate adesso, perché tra pochissimo arriverà il gioco. Voi sapete il nostro numero, 081 549 9191. Io sigo qui e siamo arrivati al momento del gioco. Allora, vediamo chi c'è in linea. Pronto? Chi sei? Ecco, non abbiamo questo in linea. Ma chi è, Regino? Era uno che alla fine ha detto non voglio giocare più. Abbiamo qualcun altro sull'altra linea? E sembra proprio di sì. Forse, chissà, ok, ci abbiamo Gino, il nostro tecnico, che sta controllando le linee qua, e tra poco immagino che possiamo parlare in diretta, o vogliamo far sentire un pezzo. Gino, che ne dici? Un pezzo? Ok, andando avanti, credo che sia Madonna che abbiamo in programmazione. Vai con Madonna, remix of What It Feels Like for a Girl. Ecco, ma stasera siamo tutti a ballare, sempre a ballare, con la musica di Radio Club 91. We love it. And we love you. che sta facendo le super ospite su questo grande pezzo di Eve, Let Me Blow Your Mind. E questo si trova nel Hot 100 del Billboard Music Charts al numero 28, grande vendita per lei. Ok, Billboard Music Charts, abbiamo un altro paio di brani da suonare e andiamo in Scozia. Troviamo un gruppo che stanno avendo successo in America, si sono trovati lì a fare il tour con Dido a giugno e speriamo bene per loro. This is Travis, the song is Side. Nominati dopo un album di Tim Buckley negli anni 60, molto bello Tim Buckley e molto bello anche questo Alcoholic. Ok, l'ultimo pezzo per questa sera, Billboard Music Charts si conclude qua, però prima di andare, il nuovo sensation all the way from New York. Sto parlando dei 5 giovani ragazzi che fanno il rock molto potente, ma che modo di chiudere il programma. Questo si chiama Last Night, o Ieri Notte, e il gruppo si chiamano The Strokes. Alright, bye, Gino Banderas con Rock! The Strokes, that's all we've got time for this evening, folks. È l'ora di andare. Io vi saluto, my name is Fergal Kavanagh. Vi saluto anche il nostro Gino Banderas e vi ringrazio per averci seguito questa sera. Torniamo domani sera alle ore 21. Vi aspetto precisamente. Allora ragazzi, a domani! 91.